America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Welcome back to The Lead, I'm Jake Tapper. More breaking news, a disturbing new warning from the same group behind the Sony email hack. They're now invoking 9/11 as they threaten to attack movie theaters that show Seth Rogen's new comedy film The Interview, which is about an assassination plot against North Korean leader Kim Jong-un. Beh, un annuncio a sorpresa, devo dire, quello di ieri sera che hanno ricevuto gli americani attraverso le network nelle notizie della sera. Una minaccia che può sembrare macabra da una parte, strana e forse persino comica dall'altra. Pensate, gli hackers che hanno attaccato la Sony hanno inviato un messaggio mettendo in guardia gli americani dall'andare a vedere il film The Interview, che uscirà il giorno di Natale, minacciando degli ipotetici attentati forse peggiori di 9/11, degli attacchi dell'11 settembre. Ecco, questa è la parte più sgradevole, è la parte più macabra naturalmente, perché fare un riferimento a quella giornata orrenda in una circostanza di questo genere non va bene, non funziona, preoccupa, non si capisce chi c'è dietro questo movimento di hackers che ha attaccato la Sony, o forse lo si capisce fin troppo bene, perché il film che gli americani non debbono correre il rischio di andare a vedere, il film The Interview, un film interpretato da due attori comici, James Franco e Seth Rogen, scritto tra l'altro anche da Seth Rogen, che ha una trama molto particolare. È una comedy, una commedia all'americana. Sono due giornalisti televisivi, due giornalisti celebrità americane che riescono a ottenere la possibilità di intervistare il leader coreano Kim Jong-un. Lo conoscete, questo giovane un po' paffutello con dei comportamenti bizzarri, sia con le signorine con cui si accompagna, sia dal punto di vista, diciamo, politico-militare, con queste sue continue minacce di esperimenti con razzi che potrebbero portare testate nucleari. Ecco, insomma, è un po' una mina vagante. Però devo dire che dopo questa minaccia di ieri, in qualche modo i conti tornano. Sentiamo una scena del film. Hello, who this? This is the Secretary of Communication for North Korea. Our Supreme Leader Kim Jong-un is interested in doing an interview with Dave Skylark. Oh my God. We will meet 50 kilometers west of Dangdong, northeastern China. Did you just say China? And did you just say Dong? 3 weeks from tonight, I will be traveling to Pyongyang, North Korea, to interview President Kim Jong-un. Ecco, il film, vi dicevo, è una commedia un po' macabra anche lei, perché questi due giornalisti alla fine devono uccidere il leader coreano che devono intervistare. Allora, dov'è il retroscena che ci fa sospettare che dietro questi hackers si nascondano, come dire, degli esperti di computer nordcoreani? Beh, il film è prodotto dalla Columbia Pictures, che è una casa cinematografica americana. La Columbia Pictures è controllata al 100% dalla Sony. La Sony è la grande multinazionale giapponese e sappiamo quanto Giappone e Corea del Nord siano ai ferri corti, soprattutto per la questione degli esperimenti nucleari. Dunque, la dietrologia in questi casi, pur essendo probabilmente, come dire, azzardata, è lecita. La vendetta di Kim Jong-un contro la Sony, in quanto si fa portatrice di un messaggio politico molto aggressivo in arrivo dal Giappone. E uno dei portavoce della Corea del Nord è stato altrettanto aggressivo, ha detto: ma insomma, questi sono gli americani che parlano. Attenzione, non ha fatto riferimento al Giappone, che, come vi dicevo, controlla la Sony, parla degli americani, perché poi il film americano, gli interpreti sono americani. Dice: sappiamo, gli americani fanno un film di questo genere perché loro lo fanno nella realtà, mandano i loro uomini a uccidere leader stranieri, guardate cosa è successo in Afghanistan, ma guardate anche cosa è successo all'interno degli Stati Uniti, il presidente Kennedy da chi è stato ucciso, e Barack Obama, che stia attento anche lui perché forse i militari del Pentagono potrebbero farlo fuori. Insomma, siamo nella più totale follia. Se non fosse che poi questi hackers hanno tirato fuori anche una serie di messaggi della Sony, questi li avrete visti nelle cronache dei giorni scorsi, in cui messaggi privati tra producers rivelano atteggiamenti, come dire, o critici o di presa in giro nei confronti confronti di certi attori, nei confronti di certi produttori e così via, così via. E c'è stata tutta una letteratura che poi è fiorita attorno a questo scandalo dei messaggi segreti della Sony. Ma che poi gli hackers vadano a minacciare un attacco peggio di quello dell'11 settembre nelle sale cinematografiche che proietteranno il giorno di Natale il film The Interview, beh, ecco lì credo che si superi ogni limite. The prospect of a third US President Bush has moved a little closer. Former Florida Governor Jeb Bush, brother and son of two recent former leaders, has become the first major Republican to declare formally his interest in the White House. He'll spend the next year trying to garner support before making a final decision on whether or not to run. Ecco, veniamo all'altra notizia della giornata, una notizia per ora ancora accennata, una giornata devo dire dominata dalla caduta del rublo, dalle preoccupazioni per l'economia russa, dal fatto che la decisione della Banca Centrale Russa di aumentare al 17% i tassi di interesse non sia servita a nulla e dunque ci occuperemo poi anche di questo nei prossimi giorni, soprattutto quando saranno più chiare le conseguenze. Ma intanto, visto che abbiamo parlato di una minaccia a un presidente americano, torniamo invece alla corsa per la presidenza del 2016 e a quello che è stato un mezzo annuncio. Jeb Bush, fratello minore di George W. Bush, figlio del presidente George Bush, quindi presidente 41, presidente 43, si propone come presidente 45. Scenderà in campo. Non è ancora un annuncio ufficiale, ma ha detto che sta considerando l'ipotesi di correre, quanto basta per aver scatenato ogni speculation politica. Questo taglierà probabilmente la strada a Marco Rubio, senatore della Florida che voleva correre, chissà, magari parteciperà lo stesso alle primarie, soprattutto riduce le chance di Chris Christie che voleva tornare all'attacco e propone un partito repubblicano centrista, quel partito che finora era stato, come dire, messo alle corde dal movimento del Tea Party, e quel partito che si accorge che per vincere la Casa Bianca bisogna combattere per il centro e conquistarlo. Dall'altra parte ci sarà Hillary Clinton e quindi una battaglia dinastica che non appartiene alla tradizione americana. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di tensioni un po' internazionali, un po' comiche, un po' di film, una guerra fredda tra Giappone e Corea del Nord, una guerra fredda tra Russia e l'Occidente. Qualcuno dice che dietro la caduta del rublo possano esserci delle azioni economiche e da parte degli Stati Uniti così molto arrabbiati per quel che succede in Ucraina. Si respira un'atmosfera un po' stantia, un po' vecchia e dunque come canzone del giorno un simbolo della guerra fredda, From Russia with Love, tratto da 007. Much wiser since my goodbye to you. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.